50 domande su Gesù. Chi fu Ponzio Pilato? Ponzio Pilato ricoprì la carica di prefetto della provincia romana della Giudea dall'anno 26 d.C. fino al 36 o all'inizio del 37. La sua giurisdizione si estendeva anche alla Samaria e all'Idumea. Non sappiamo niente di certo sulla sua vita prima di queste date. Il titolo dell'ufficio che disimpegnò fu quello di prefectus, come confermato anche in una iscrizione rinvenuta a Cesarea. Il titolo di procurator, usato da alcuni antichi per indicare il suo ufficio, non gli è pertinente. I Vangeli si riferiscono a lui col titolo generico di governatore. Come prefetto, Pilato doveva provvedere al mantenimento dell'ordine nella provincia e ad amministrarla sotto gli aspetti sia giudiziari che economici. Pertanto era capo dell'ordine giudiziario, e ciò consta dalla sua presenza nel processo di Gesù, e sovraintendeva alla raccolta dei tributi e delle imposte per sovvenire alle necessità della provincia Giudea e di Roma. Di quest'ultima sua attività non ci sono prove dirette, anche se l'incidente dell'acquedotto riportato da Flavio Giuseppe, si veda meglio più avanti, è sicuramente legato ad essa. Inoltre si sono trovate monete coniate a Gerusalemme negli anni 29, 30 e 31 che senza dubbio furono ordinate da Pilato. Però al di là di tutto egli è passato alla storia per avere condannato a morte Gesù di Nazareth. Come per ironia, per questo fatto il suo nome è entrato nel simbolo della fede cristiana che recita così: patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Le sue relazioni con i giudei, secondo Filone e Flavio Giuseppe, non furono del tutto pacifiche. A giudizio di Giuseppe, gli anni trascorsi da Pilato in Palestina furono molto turbolenti e Filone dice che il procuratore era noto per la sua venalità, le sue ruberie, la sua condotta violenta, i suoi abusi, le frequenti esecuzioni di prigionieri senza un regolare processo e la sua ferocia senza limiti. Quantunque su questi apprezzamenti sicuramente influisce una certa prevenzione ostile nei suoi confronti da parte di questi due autori, la crudeltà di Pilato, come riferisce il Vangelo di Luca al capitolo 31, versetto 1, dove si menziona l'incidente di alcuni galilei, il cui sangue il governatore mescolò con i sacrifici, sembra fuori di dubbio. Giuseppe e Filone narrano anche che Pilato introdusse a Gerusalemme alcune insegne in onore di Tiberio, che originarono un grande tumulto fino a che se le portò a Cesarea. Giuseppe riferisce in un altro passo che Pilato utilizzò fondi sacri per costruire un acquedotto. La decisione causò una rivolta che fu sedata nel sangue. Alcuni pensano che questo avvenimento sia quello a cui si riferisce il Vangelo di Luca di anzi citato. Un ultimo episodio riferito da Giuseppe è la violenta repressione della rivolta dei Samaritani sul Monte Garizim verso l'anno 35, in seguito alla quale i Samaritani inviarono una legazione al governatore della Siria Lucio Vitellio, che sospese Pilato dalla carica. Questi fu chiamato a Roma per dare spiegazioni, però arrivò dopo la morte di Tiberio. Secondo una tradizione raccolta da Eusebio, cadde in disgrazia sotto l'impero di Caligola e morì suicida. Nei secoli successivi sorsero su Pilato leggende dal contenuto contrastante. Alcuni gli attribuivano una fine orribile nel Tevere o a Vienne in Francia, mentre altre, soprattutto gli atti di Pilato, che nel Medioevo facevano parte del Vangelo di Nicodemo, Affermano addirittura che si convertì al cristianesimo insieme a sua moglie Procula, che la Chiesa ortodossa venera come santa per la sua difesa di Gesù, come narra Matteo al capitolo 27. Inoltre, lo stesso Pilato è annoverato tra i santi nella Chiesa etiope e copta. Ma al di sopra di queste tradizioni, che nell'origine riflettono l'intento di attenuare la colpa del governatore romano in tempi in cui il cristianesimo incontrava difficoltà per introdursi nell'impero, la figura di Pilato che conosciamo dai Vangeli è quella di un personaggio indolente che non vuole confrontarsi con la verità e preferisce accontentare la folla. Il fatto che sia citato nel Credo, nonostante possa sembrare un paradosso, è di grande importanza perché è la conferma che la fede cristiana è una religione storica e non un programma etico o una filosofia. La redenzione, infatti, si è attuata in un luogo concreto del mondo, la Palestina, ed in un tempo concreto della storia, cioè quando Pilato era governatore della Giudea.